Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuta a una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Hercules, film del 1997 ed è considerato il 35esimo classico Disney. Il film prende il nome dalla figura mitologica di Ercole, di cui si parla soprattutto della gigantomachia più che delle 12 fatiche, ovvero la leggenda più famosa. Il film inizia con la nascita di Ercole, figlio di Zeus ed Era, poco dopo che Zeus era riuscito a relegare i Titani, ovvero una minaccia per l'Olimpo, in fondo, diciamo, alla Terra. Ade, il dio degli inferi, è acerrimo nemico di Zeus e di conseguenza è anche acerrimo nemico di Ercole. E scopre che fra 18 anni un allineamento di pianeti avrebbe reso possibile scoprire l'ubicazione dei Titani. E la sua intenzione era quella di risvegliarli per poter avere l'egemonia sull'Olimpo. Però scopre anche, in questa profezia, che Ercole sarebbe stato in grado di sconfiggerlo. E quindi il suo piano è uccidere il piccolo Ercole rendendolo un umano. Ade manda i suoi scagnozzi ad ucciderlo, ma durante il processo per renderlo un umano, gli scagnozzi vengono spaventati da una coppia di contadini che trovano Ercole e lo adottano. Ade quindi è convinto che Ercole è morto e quindi non è più una minaccia. Ed Ercole cresce fra i mortali, ma con ancora la sua forza divina. Questo lo rende un ragazzo molto emarginato perché tutti avevano paura di lui. E questa sua emarginazione, crescendo e arrivando ai 16 anni, è un grande problema. E quindi chiede ai genitori di capire come mai lui è così potente ed è così diverso dagli altri. I suoi genitori gli rivelano che è stato adottato e che probabilmente ha qualche connessione divina. Quindi lui andrà nel tempio di Zeus, chiederà aiuto agli dèi e arriverà suo padre stesso a rivelargli della sua vera identità. E gli dirà che potrà entrare all'Olimpo solamente se si rivelerà un vero eroe. Da lì parte il suo addestramento, che durerà 2 anni, e all'alba dei suoi 18 anni deciderà di partire per Tebe, per mettere alla prova le sue gesta eroiche. Durante il tragitto per Tebe, Ercole e i suoi amici incontrano una ragazza di nome Megara, che è in difficoltà e lui la aiuta. E si innamora di lei, però in realtà Megara è una sottoposta di Ade e Ade quindi scopre che Ercole è ancora vivo. Questa cosa ovviamente è una grave falla nel suo piano e decide subito di scagliarli contro i suoi più spietati mostri, che però Ercole riesce a sconfiggere tutti diventando l'eroe di Tebe. A questo punto Ade decide di utilizzare Megara come esca per attirare Ercole e di conseguenza la imprigiona e la rapisce. Ercole quindi la va a salvare, scopre dell'affiliazione di Megara con Ade e decide di accettare le condizioni di Ade per liberarla, ovvero di conferirgli tutta la sua superforza, diciamo. A questo punto Ade è in grado di liberare i Titani e decide di attaccare l'Olimpo. Ercole così riesce attraverso l'astuzia a liberare Tebe dalla minaccia dei Titani e a liberare anche Megara. E alla fine, insieme a Zeus, riesce a sconfiggere i Titani. Ma purtroppo negli avvenimenti Megara muore. Ed Ercole decide di salvare la sua anima scendendo giù negli inferi e chiedendo ad Ade di prendere la sua anima al posto di quella di Megara. Grazie alla sua forza di volontà e l'amore che provava per Megara, Ercole riesce a sopravvivere e a far ritornare in vita la sua innamorata e a sconfiggere definitivamente il dio degli inferi. Così tornerà vittorioso nell'Olimpo, ma deciderà di rimanere un semidio per vivere con Megara. Il film a livello di design è molto diverso rispetto agli altri film perché comunque vede dei disegni molto stilizzati e molto grafici, però allo stesso tempo molto moderni. Agli studios avevano deciso di dare un aspetto più moderno a questa storia mitologica, anche perché ci sarebbe stato il rischio di creare una storia forse un po' troppo noiosa per dei bambini. E infatti hanno avuto successo nel loro intento, proprio perché Hercules è forse uno dei film più apprezzati dai bambini del periodo e quindi tuttora. Inoltre, anche i personaggi sono molto moderni. Per esempio Ade, che sarebbe il cattivo principale, un uomo senza scrupoli, è quasi visto come un affarista proprio perché è un personaggio molto nervoso, molto ansioso, che diventa anche un po' una figura comica all'interno del film. E inoltre la colonna sonora ha anche delle influenze, per esempio, della musica afroamericana, come per esempio le muse rappresentano appunto un coro gospel. Tutto questo ha reso il film molto apprezzato dalla critica e ha avuto anche un ottimo successo economico e la colonna sonora ha vinto un Oscar e un Golden Globe. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.